Continua il nostro percorso di avvicinamento al Premio Internazionale di Poesia Religiosa San Sabino, nona edizione. Ricordiamo la scadenza il 31 marzo 2017, parrocchiatorreglia.it per i dettagli. Ci accompagna anche oggi in un'ulteriore riflessione Don Giulio Osto, bentornato. Buongiorno a voi. Sviluppiamo, Don Giulio, questo binomio un po' particolare che è teologia e letteratura. Binomio, devo dire, piuttosto inusuale, almeno per la mia conoscenza. Conoscenze magari limitate, però così mi sembra che non è così abituale. Sì, è una coppia forse poco frequente nei discorsi anche ecclesiali, anche teologici, eppure è una relazione che da sempre si crea tra queste due discipline. E per esempio la matrice di tutto quanto è proprio la Bibbia, che prima di essere sacra scrittura è innanzitutto scrittura e quindi è anche letteratura. Anzi, la presenza della Bibbia nella letteratura è una costante, e soprattutto per quanto riguarda, ecco, la cultura europea. E già questo rapporto tra Bibbia e letteratura, Bibbia e letterature, è uno dei campi più affascinanti del dialogo tra teologia e letteratura. E su questo terreno c'è una pubblicazione recente che proprio offre un bellissimo percorso, ecco, di grande spessore, e che può essere un contributo veramente significativo per approfondire questo rapporto tra teologia e letteratura. E questo è proprio il titolo di un recente saggio pubblicato nel 2015, quindi solamente un paio di anni fa, da Marco Ballarini, ecco, dottore della Biblioteca Ambrosiana di Milano. Questo saggio, Teologia e Letteratura, pubblicato dall'editrice Morcelliana all'interno della bellissima collana 900 Teologico, che cerca di esplorare i vari rapporti tra la teologia e altri ambiti, come in questo caso la letteratura. Ecco che allora in questo saggio troviamo una prima passeggiata all'interno di questo paesaggio, divisa in due grandi capitoli. Nel primo si parte dalla letteratura biblica alla teologia medievale. Ecco, questo rapporto nel quale soprattutto pensiamo alla tradizione monastica, c'è sempre stato una grande cura, ecco, della scrittura. Pensiamo semplicemente al fatto che tanti libri classici che noi abbiamo studiato al liceo sarebbero scomparsi senza il lavoro dei monaci che li hanno trascritti, li hanno studiati, li hanno ricopiati, e quindi la vita del monaco era dedicata proprio alle lettere, alla scrittura e alla sacra scrittura, certamente. Ecco, questa è la prima parte, ecco, di questo saggio, che ci porta dentro le grandi biblioteche, ecco, dei monasteri, per poi saltare nella seconda parte al quel rapporto veramente interessante che ha messo insieme la teologia del Novecento con la letteratura. E questo è un panorama veramente interessante, perché si scopre con grande sorpresa e anche con interessanti scoperte che i maggiori teologi del Novecento si sono occupati di letteratura. Ecco, per esempio faccio i nomi di Romano Guardini, di Hans Urs von Balthasar, di Hans Küng, di Karl Rahner e dell'ancora vivente il domenicano Jean-Pierre Jossua. Ecco, per dire cinque nomi, cinque volti, due appunto tuttora viventi, anche se anziani: Hans Küng, un teologo svizzero, famoso più per altre questioni che per la sua passione per la letteratura, e Jean-Pierre Jossua, ecco, un domenicano francese. Mi vengono in mente due esempi, poi magari su questo ragioniamo. Mi è venuto in mente la biblioteca raccontata da Umberto Eco nel Nome della Rosa, quindi siamo in periodo medievale. Mi viene in mente la Divina Commedia di Dante Alighieri. Ecco, esatto, così. Queste due sollecitazioni. Beh, la biblioteca del Nome della Rosa è proprio, come dire, un parco giochi dove continuamente teologia e letteratura si danno incontro, si danno appuntamento. E in tanti monasteri, sopra la porta della biblioteca c'era scritto psichesse iatreion, cioè farmacia dell'anima, a dire insomma che la lettura, ecco, diventava una pratica che faceva passeggiare insomma la mente e lo spirito. Ecco il motivo per cui in tutti i monasteri sono tre gli ambienti più grandi che esistono, sono tre gli ambienti comunitari: la chiesa, certamente per la preghiera, il refettorio, dove comunque si ascolta qualcosa che viene letto, e la biblioteca. Questa triade, ecco, monastica diventa proprio un esempio significativo del rapporto tra la mensa eucaristica, la mensa fraterna e la mensa, potremmo dire, della scrittura, della letteratura, delle lettere. E possiamo notare come purtroppo anche nella nostra cultura le tre mense siano totalmente separate spesso, e purtroppo delle tre quella che viene sempre meno sostenuta e valorizzata è proprio la mensa delle lettere, perché per quanto riguarda i refettori siamo anche messi bene, per quanto riguarda le chiese anche, ma per le biblioteche invece abbiamo una brutta fama, perché sono sentite come ecco, luoghi fatti di polvere e per i famosi topi di biblioteca. Ecco, ecco, sulla Divina Commedia invece, vabbè, lì sarebbero moltissimi riferimenti, ma insomma la base è certamente in una parte mitologica, ma poi c'è moltissima teologia dentro la commedia dantesca. Beh, potremmo dire che la Divina Commedia è una teologia diventata poesia, e il caso Dante è qualcosa che fa discutere da più di sette secoli. E se noi approcciamo la Divina Commedia soprattutto come letteratura, come poesia, purtroppo manca invece l'approfondimento dal punto di vista della teologia, perché sarebbe impossibile comprendere Dante senza il background, lo sfondo teologico, soprattutto legato alla teologia di Tommaso d'Aquino, che innerva ogni verso. Ma certamente la Divina Commedia è proprio uno dei grandi esempi di dialogo fecondo tra la poesia, in questo caso, e la teologia. Allora, io ringrazio a distanza i professori del liceo che me l'hanno fatta amare e non odiare, per questo mi sono permesso di citarla. Allora, ricordando ancora Parola Mistero, il sito appunto dove trovate informazioni sul premio di poesia San Sabino, che è il sito della parrocchia di Torreglia, parrocchiatorreglia.it. Con Don Giulio ci diamo appuntamento fra qualche giorno. Buona giornata.